Friuli nel mondo, 105esima trasmissione dedicata agli emigrati. Incontro di poeti. Questa breve rassegna poetica intende esprimere l'anima dei nostri scrittori fortemente legata alla terra del Friuli. Sono canti che nella descrizione del paesaggio e dei moti spirituali legati a persone e a cose di ogni giorno riflettono il carattere malinconico ma profondamente umano della loro piccola patria del sangue. Nella dizione di Nevio Ferraro ascoltate questi poetici componimenti. Da Poesie di Carlo Battistella, Friuli. Di tempo in tempo è destino, a un grido lacerato, dalla parte di Levante, lasciare le vanghe e il nido per altri ferri da seminare sangue. Ogni anno anche di partirsi dalle terre scarne, a esilio per la rosa delle strade, duro pane finché la stagione aiuta. Ma l'inverno è la patria. La bora saluta mulinando le foglie, avvampando le brage, chi ritorna alle soglie ritrovate. Sempre arrivare, sempre partire. Gli occhi son fisi al legno che fuma, è buio. Il silenzio opprime, ma sulle teste ravvicinate par che la cappa salti e s'accenda d'oro, s'aprano immense navate, miracolosa cattedrale in un lampo nella notte. Hanno intonato il corale di villotte, voci da un cuore disperato e calmo. Di Siro Angeli, dalla Panarie, La pieve di Cesclans. Liberi per un giorno dal groviglio tenace dei terreni desideri, dimenticando l'odio e il male di ieri, ci parrà di tornare da un esilio. Domani, quando saliremo il colle che seppe le vestigia dei romani, dai paesi vicini e dai lontani come una volta torneran le folle. Ci chiami in alto, più vicini al cielo. Vi sarà dentro i nostri cuori un lembo di quell'azzurro che t'entrava in grembo quando eri tutta quanta in isfaceno. Non io dirò di te che sei risorta. Fatta non sei soltanto di granito. Sei nel bimbo che piange il suo vagito prima, nella creatura che c'è morta. Sei speranza e sudore. Sei memoria di dolori e di gioie e di fortune. S'apron le fosse, dondolan le cune. La nostra storia è sempre la tua storia. Come una fiamma che giammai s'ammorza è il nostro amore. E non so quale oscura forza sale dai morti alle tue mura come linfa vital sotto la scorta. Una catena che giammai si spezza a te d'intorno fanno. E quando posi, materna, l'ombra sopra i lor riposi, fremon come a una mano che accarezza. Tutto ritornerà come una volta. Lieta consacrerai le nuove culle, risuoneranno cori di fanciulle bianco vestite sotto la tua volta. A te verremo come ad un rifugio, con alle mani rose dalla calce o incallite dall'uso della falce i figli. E dolce ci sarà l'indugio per ridirci le solite parole, lì, sul sagrato nella breve attesa. Scorrono intanto gli occhi la distesa dei prati che verdeggiano nel sole. Eccovi ora di Dino Menichini le teleferiche del Matajur. Nella mia valle, quando il natisone mette ali alle pale dei molini e inquieto il fresco vento di nord-est fa più acuta la spina alle robinie, primavera è lo zufolo rapito ai giunchi della prode, l'improvviso tumulto delle aeree teleferiche. La carrucola stride sull'inarcato filo, sciama intorno la ressa dei fanciulli. Nella pista il carraio dà voce al cavallo se piega, e lungo il fiume gli adolescenti attarda un acre gioco di levigati sassi a pelo d'acqua controcorrente. Tornano i ramarri all'erba che li occulta. Già si fa insidia la biscia, una fionda, una forchetta al dorso della prota. Muove un canto il passo dei fanciulli dentro un giorno più lungo al loro grido. E sera è appena un brivido di foglie per vento che le investe. Dolce vento del Matajur, che in ombra strisci a valle per ferme teleferiche sospese. Da L'uccello nell'inverno di Maria Grazia Lenisa, l'emigrante friulano. Parla una fidanzata. I ragazzi del mio paese a 20 anni vanno lontano, in gola un nome straniero, nome che brucia quanto l'acquavite. Partono, il bavero rialzato, senza voltarsi indietro. Tu pure partisti. Le tue spalle nel mio ricordo, più del tuo volto. Tua madre parla con te come se tu le parlassi. Ogni giorno crede di udire i tuoi passi vicino alla casa. Ne sei ritornato. Le tue spalle nel mio ricordo, più del tuo volto. Di Tosco Nonini, da Un pugno di questa terra, attesa. Perché sostare ai muti pioppi se densa d'ombre ai colli si arrampica la sera e l'ape tarda sugge i fiori scolorati? La sera, vedi, vanifica disegni assurdi di comignoli, il cerchio dell'attesa nella strada e la speranza del suo volto. Ora che ritorni, i passi senza eco dissolvono la polvere, ma li sa il cane che uggiola lontano. Chiudiamo questa rassegna con la lirica di padre David Maria Turoldo da Udii una voce, dal titolo Io faccio amara anche la tua morte. Mamma, hai la bocca piena di terra. Radici ora ramificano dagli occhi, dal cuore che ci offriva il pane in silenzio. E tremavi tutta per la nostra pena di fanciulli ormai adulti, di fanciulli ancora soli e poveri. La casa è deserta da allora. La corte è tutto un disordine, e nulla è mutato nella nordine, e nulla è mutato nella nordine, e nulla è mutato nella nordine. Io mi dispongo. Egli si è chiuso dietro un portone di bronzo cui picchio la notte, ma nessuno viene a consolare questo tuo ultimo figlio. Solo il vento fischia e cavalca sfrenato su tutta la pianura. Ho lasciato il gregge. A ricordi, la pecora segnata di bianco in fronte, la pecora vissuta con noi tanti anni, la madre di tutti gli agnelli che sapeva il tuo passo lieve e ti chiamava con la voce di una creatura e ti guardava con occhi così dolci quando la mungevi a sera. E io ero felice di ritorno dai campi col gregge sazio. Ho lasciato i nostri campi, mamma. Quella pianura vasta e taciturna dal colore dei tuoi capelli biondi come le vigne all'autunno. Ho lasciato i compagni sul sagrato a rincorrersi e la chiesa piana. Ricordi quel giorno triste di settembre. Tu mi salutavi dietro la porta e dicevi, figlio, noi siamo poveri, un'avventura troppo grande. È un'avventura troppo grande, madre. Grande madre. Grande madre. E il cielo non risparmia nessuno. E gli uomini non perdonano i sacerdoti. Ora torno dal deserto di mezza Europa nella casa immensa. Allora ci pareva un nido di passeri. E mi pesi ancora sulle braccia, nero vestita e serena. Più nessuna lacrima rigava la tua faccia. Da allora mi pesi ogni giorno sulla patena insieme a Cristo. Patena insieme a Cristo. Patena insieme a Grembo. Ora io faccio amara anche la tua morte.